Siete all'ascolto di Radio Oltre Po, 24 ore su 24, solo grande musica. State ascoltando Radio Oltre Po. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Benissimo, eccoci qua su Radio Oltre Po. Io sono il Mangia, rimarremo insieme per circa un'oretta dove vi farò ascoltare della bella musica, ma dove avremo anche modo di discutere insieme sui fatti più salienti di questa settimana. Anzitutto complimenti a Roberto Vecchioni per aver vinto il Festival della Canzone Italiana, quindi complimenti a Roberto Vecchioni, magari ne parleremo più approfonditamente all'interno di questo programma chiamato semplicemente Mangia Show, che vi ricordo va in onda circa un paio di volte all'interno della programmazione di Radio Oltre Po, ed è una trasmissione principalmente dove proponiamo della musica Creative Commons, quindi sono canzoni che non fanno parte della SIAE, ma sono brani che potete trovare su internet. Facciamo qualche esempio: sul portale yamendo.com potete ascoltare insomma la musica della nostra radio, ma non solo ascoltarla, il bello è che potete anche scaricarla, fare il download gratuito e riascoltarvi le canzoni magari all'interno del vostro iPod, all'interno del vostro cellulare. Spiegato questo, il nome del programma è Mangia Show. Il conduttore è Andrea, oppure se preferite Mangia. In apertura vi do tutte le coordinate per essere grandi protagonisti insieme al sottoscritto: www.radiooltrepo.com è il sito della radio. Se invece siete un po' più curiosi di scoprire di chi è questa voce, vi do anche l'indirizzo del mio blog: www.andreamangiarotti.com. Poi abbiamo anche un indirizzo mail che è il seguente: radio3po@live.it, ci trovate sui principali social network tipo Twitter o anche Facebook, siamo presenti anche lì, sia come fans club della radio ma anche come Radio Oltre Po Pavese. Quindi per aggiungerci alla vostra lista d'amici dovete solo cercare Radio Oltre Po Pavese su Twitter, ci troverete e sicuramente potremo diventare amici e scambiare un sacco di opinioni musicali. Direi di ascoltarci la prima canzone che apre ufficialmente il Mangia Show, che è dell'amico Graziano Manca, al secolo Dark Light, estratto dal suo primo album che trovate su yamendo.com, e anche se non erro la traccia numero 1, Alone in the Dark. Lui è Dark Light su Radio Oltre Po all'interno del Mangia Show. Mentre mi sto gustando una bella sigarettina, buona serata a tutti. bella musica elettronica di Graziano Manca al secolo Dark Light, con questo brano intitolato Alone in the Dark, estrapolato dal suo primo CD che trovate in download free su yamendo.com. Ora leggiamo una notizia di cronaca. Purtroppo in questi giorni c'è fervore in Medio Oriente, ci sono un sacco di proteste e quella più significativa è sicuramente la protesta libica. Abbiamo estratto un articolo dalla Repubblica Mobile che dice: Libia, raid aereo, centinaia di morti a Tripoli, Al Jazeera, militari verso il colpo di Stato. Poi continua l'articolo: scontri e tensioni dopo il discorso del figlio di Gheddafi che promette riforme ma minaccia fermatevi o sarà guerra civile. Spari e urla nella capitale, in fiamme il Palazzo del Popolo, uno dei principali edifici governativi. Poi ancora dall'alto, caccia militare dell'aviazione libica, avrebbero eseguito dei raid contro i manifestanti. Per Al Jazeera, la TV araba, nella capitale sono oggi, ci sarebbero circa 250 vittime. Il bilancio ufficiale parla di quasi 300 morti a Bengasi, caduta in mano ai rivoltosi insieme a Sirte e altre città. Unità dell'esercito solidarizzano con la protesta, un cantiere straniero assaltato, molti feriti, voci di fuga del leader Gheddafi, ma secondo i siti dell'opposizione Gheddafi è ancora nel paese. Lascia il ministro della giustizia in polemica con l'eccessivo uso della forza nel paese, interrotte le comunicazioni telefoniche, massima allerta nelle basi militari italiane. Si sconsiglia anche ai turisti di recarsi in Libia in queste settimane, quindi staremo un po' a vedere se la situazione migliorerà oppure ci sarà un cambio della guardia anche lì, come è accaduto del resto a Mubarak in Egitto. Berlusconi non è che gli abbia tanto portato bene Mubarak dopo questa sua affermazione del caso Ruby. Mubarak ha dovuto abbandonare il governo egiziano. Staremo a vedere e a sentire ciò che accadrà in questi giorni invece per quanto concerne la Libia. Magari mi informerò anche tramite satellite, riesco a vedere la TV libica, vi aggiornerò se la situazione peggiorerà oppure mi auguro e speriamo insomma si possa risolvere il tutto magari con un accordo di pace e che cessino i cosiddetti bombardamenti e insomma tutto quello che è connesso in queste situazioni molto calde che in questi giorni si stanno sviluppando in ogni parte del Medio Oriente. Ora andiamo avanti con la musica, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Oltre Po. Arriva Juanitos con Samba de Che Guevara. The next speaker is the Minister of Industries of Cuba. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Señor Presidente. Señor Presidente. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Señor Presidente, señor Presidente, Presidente. Señor Presidente. millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Y América Latina, presidente, se levantan al encuentro de una nueva vida, señor presidente, su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y al desarrollo independiente de sus naciones. Era la rumba de Che Guevara a cantare Juanito. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show su Radio Oltre Po. Se volete collaborare con il programma oppure semplicemente volete interagire con il disc jockey in onda, potete visitare il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure visitare il sito della radio www.radiooltrepo.com. Lì trovate tutte le indicazioni per entrare in connessione con il sottoscritto e anche con Radio Oltre Po. Purtroppo in precedenza abbiamo citato la situazione libica, ma anche la situazione del Maghreb non è rose e fiori. Purtroppo anche la Tunisia e il Marocco si vedono queste proteste da parte della popolazione verso i governanti che da molti anni sono lì che detengono la poltrona, il, diciamo così, comandano la nazione. C'è un articolo sempre preso dalla Repubblica Online che parla degli sbarchi di migranti a Lampedusa. La situazione a Lampedusa è abbastanza critica, siamo quasi al collasso, e dice per l'appunto l'articolo: Lampedusa riprende l'emergenza sbarchi, tensioni tra i migranti, sassaiola per il cibo, pensate un po', rissa tra magrebini in fila durante la distribuzione dei pasti, riprende l'esodo, salvati 6 immigrati in mare con la carretta a remi alla deriva. Ieri sera sono state scortate nel canale di Sicilia 2 imbarcazioni, la prima con 89 persone a bordo e la seconda con 42. Quindi, come vedete, la situazione non è, diciamo così, delle più felici. Lampedusa è sempre emergenza, nuovi drammatici sbarchi, tensione nel centro d'accoglienza, esodo senza fine, anche se le condizioni del mare dovrebbero a breve peggiorare. Già alle prime luci del giorno erano circa 130 i migranti approdati a Lampedusa, quindi situazione direi abbastanza non proprio proprio drammatica, comunque una situazione che richiede un intervento magari anche dello stesso governo. Ora andiamo avanti con la musica dance, abbiamo questo bel brano di Felix dal titolo Little Dreams, sei su Radio Oltre Po, Felix. House music, solo però quella di Rando Oltre Po. Buon ascolto a tutti. State ascoltando Radio Oltre Po. Thank you. fino all'ultima nota questa bellissima Dream Bridge di Jack R. Quartet. Ho fatto ascoltare tutto il brano senza interromperlo, perché qua si tratta veramente di un grande artista e anche di un grande album che trovate liberamente e legalmente su yamendo.com. Basta cercare Jack R. Quartet con Dream Bridge, una canzone stupenda. Siamo veramente molto molto raffinati questa notte. Siete sempre all'ascolto di Radio Oltrepò in compagnia di Andrea, in compagnia soprattutto del Mangia Show. Vi ricordo tutti i nostri contatti: se vi piace questo programma potete comunicarcelo o tramite email all'indirizzo radiooltrepo@live.it, oppure potete andare sul sito www.radiooltrepo.com per scoprire insomma dove trovarci, non solo nel nostro sito ma anche nei principali social network mondiali. E poi c'è anche il mio sito, il mio blog, che è il seguente: www.andreamangiarotti.com. Se volete anche magari proporre delle trasmissioni nella vostra radio, se magari ci state ascoltando sia in FM che anche web radio, basta insomma contattarmi. E se vi piace la mia voce, il modo che ho impostato la trasmissione, potrebbe anche rivivere nella vostra stazione. Quindi contattatemi tranquillamente, disposto ad diciamo così entrare nella vostra stazione. Ovviamente è richiesta massima serietà e realtà da parte mia, la trovate, e mi auguro che questa realtà e questa serietà sia contraccambiata anche da parte vostra. E dopo questo bel brano di musica, diciamo così, jazz, un po' fusion, scusate, leggiamo una notizia di Sanremo. Come ben sapete, insomma, Roberto Vecchioni ha trionfato all'Ariston, però la musica di Sanremo non viene solamente distribuita tramite CD, ma in questi ultimi anni, come ben sapete, si è anche sviluppata tramite il web, dove è possibile proprio scaricare e acquistare anche brani musicali che possono essere di musica leggera come Sanremo, ma anche composizioni internazionali. Dicevo di questo articolo che è comparso sul Corriere della Sera, che cita proprio le classifiche dei download di brani musicali. Questi download vengono fatti legalmente, e al primo posto non ci sarebbe Roberto Vecchioni, ma bensì i Modà con Emma, e Vecchioni sarebbe al secondo posto nei download legali e insomma leciti, quelli che vengono sviluppati da alcuni siti dove è possibile acquistarsi o tutto l'album oppure semplicemente una traccia pagando con carta di credito. Quindi Vecchioni è in questa classifica al secondo posto, invece al primo c'è Emma e i Modà. Questo dimostra sempre che Sanremo ha anche un pubblico giovane che, diciamo così, favorisce gli artisti molto giovani. Però anche le vecchie glorie non si comportano certo male. Vecchioni è al secondo posto come download dai principali siti che offrono questo servizio musicale. E dopo questa notizia direi molto molto telematica, si parlava di download, vi ricordo che questo programma andrà in versione podcast, dove trovate direttamente nel nostro sito www.radiooltrepo.com. cliccate nel link i nostri podcast e potete scaricare tutte le puntate proprio del Mangia Show. Mi sembra di aver detto tutto, andiamo avanti con un bel brano abbastanza dense. Avrete sicuramente sentito la tosse, scusate, un bel brano veramente bello. Ходить на самого себя, образца года давно ушедшего. И я как будто взаперти в клетке, и я там должен вспоминать свои погрешности, ошибок куча, как и несказанных слов, стихов недописанных о тебе пару сотен. Пытаясь удивить, я потерялся в себе. Быть идеальным, вот что приелось больно. У каждого своя роль в нашей игре. Еще 2-1 более чем достойный. Но я проиграл, и не привыкать же мне грязнуть от любви в душевной боли. Мы погрязли во лжи, ну да, приукрась, сделай меня, как обычно, виноватым. И я хотел бы тебе пару слов сказать, но ты не давала, не давала. И я не буду лезть в душу, просто забуду эту любовь твою. И я не буду лезть в душу, просто забуду эту любовь твою. А вспомни, 3 месяца назад, тогда мы в первый раз с тобой гуляли. И наш первый поцелуй на патриарших прудах. И как друг друга крепко мы держали. И я терпел все, и возвращаясь назад, я набирал твой номер, говорил, что скучаю. Ты так боялась, что мама услышит тебя, когда ты клятвенно в любви признавалась. И тот дождь, который стекал по щекам романтики, придавая поцелуем нашим. И это было так красиво, я тогда не знал, что упущу тебя, какой же я дурак. И каждая мечта. Non chiedetemi il titolo della canzone in ucraino, però il titolo degli artisti lo posso citare, almeno mi sembra abbastanza comprensibile anche per il sottoscritto. MC Akem e Elena L, che non so di preciso come sia il cognome, comunque scusate se non vi cito proprio il titolo della canzone, ma è decisamente complicato essendo in lingua ucraina. Cari amici, siete sempre all'ascolto di Radio Oltrepò. Giunto a questo punto, diamo uno sguardo ai principali film in programmazione al Cinemax di Piacenza e anche al The Space di Montebello della Battaglia, che presso poco sono simili come programmazione. Al Cinemax di Piacenza per questa settimana potrete visionare nelle varie sale Amore e altri rimedi. Come lo sai, il Cigno Nero, il Grinta sono il numero 4, The Shock, Labyrinth, Extreme 3D, Sanctum in 3D, I Fantastici Viaggi di Gulliver in 3D, Femmine contro Maschi, Parto con il Folle, Immaturi, Qualunque Mente però solamente, mi sembra, nella giornata di martedì oramai trascorsa. E poi venerdì, vi ricordo, dovrebbe uscire Manuale d'Amore con Carlo Verdone, e altri film dovrebbero animare le multisale italiane. Dopo aver dato uno sguardo al Cinemax di Piacenza, certe volte mi confondo, mi viene di dire Cinestar, un tempo si chiamava così, al Cinemax di Piacenza, ora diamo uno sguardo invece al cinema, anche in questo caso qualche anno fa si chiamava Medusa, ora ha cambiato nome, si chiama al cinema The Space di Montebello della Battaglia. Lo andiamo a recuperare così in versione online, quindi scusate se prendo tempo, ma l'ho trovato immediatamente. Vediamo i film in programmazione per questa settimana, che sono, come vi ho ricordato precedentemente, molto molto simili al Cinemax di Piacenza. Abbiamo il Grinta, questo bel film western, poi c'è invece Sono il numero 4, ancora Immaturi, che rimane in programmazione, Il Truffacuori, Femmine contro Maschi e vediamo altre pellicole, scusate ma faccio tutto da solo così in real time, Amore e altri rimedi, e abbiamo Il Cigno Nero e Sanctum in 3D. Questi sono i film in programmazione alla multisala The Space di Montebello, e in precedenza abbiamo letto anche i film in programmazione invece al Cinemax di Piacenza. Siete sempre all'ascolto di Radio Oltrepò. Ascoltiamo immediatamente un ennesimo brano musicale molto interessante e vi ricordo che la radio è sempre con voi 24 ore su 24, Radio Oltrepò, è con voi e non vi abbandona, come si suol dire, veramente, veramente mai, sempre con voi. Eccoci qua. Ascoltando Radio Oltre Po. ума, все люди словно не свои, весною разобьют сердца. Улыбки, слезы и слова смешает пьяная весна, надежды, встречи и мечты, и ночи долгие без сна. Пришла весна, приходят новые мечты, ведь новый день подарит то, что хочешь ты. Пришла весна, все ваши дали и любви достиг она, сотрет границы и черты. Весна, приходят новые мечты, ведь новый день подарит то, что хочешь ты. Пришла весна, все ваши дали и любви достиг она, сотрет границы и черты. Приходят новые мечты, ведь новый день подарит то, что хочешь ты. Пришла весна, все ваши дали и любви достиг она, сотрет границы и черты. Ска, ска. Questo finale è un po' da vecchio Tommy o Metto del West, il vecchio Tommy del West, con questo finale particolare. Il titolo del brano dovrebbe essere, provo Zardano, Prishwana West Bam, qualcosa del genere, veramente. Non ridete troppo, ragazzi, non ridete troppo. Siete sempre all'ascolto della nostra trasmissione, siamo tornati in diretta. In precedenza invece abbiamo ascoltato un bel brano di Steel Player Guitar in lingua tedesca, e ora siamo tornati in onda per le ultime battute del Mangia Show. Ma non disperate, poi ci ascolterete ancora settimana prossima, eccetera eccetera eccetera. Ora invece ho estrapolato una notizia molto carina dal Fatto Quotidiano, questo giornale dove ci lavorano dei giornalisti un pochino bricconcelli, tra virgolette, insomma, che si divertono a fare delle parodie su alcuni uomini politici nostrani. Primo fra tutti il giornalista Marco Travaglio, e solitamente il giornalista più preso di mira è lui con i suoi articoli, ma il politico invece più preso di mira rimane sempre, loro lo chiamano Silvio B, Silvio Berlusconi, che è spesso, diciamo così, vittima dei loro articoli molto molto coloriti e oserei dire anche simpatici. Ecco, ho trovato questo articolo che parla di ecologia in Italia, impazza l'ecoinformazione, documentari, inchieste e riviste specializzate. Sì, però facciamo partire la base consona, perché quando si parla di natura, vi ricordo che in versione test abbiamo anche una seconda radio che si chiama Radio Oltrepò 2, che trasmette nell'arco delle 24 ore solo musica new age oppure i cosiddetti suoni della natura. Se non li avete mai ascoltati, ve li faccio ascoltare, sono questi, sentite, ecco. Questi suoni servono per rilassare la mente, il corpo, e per diciamo così, risolvere alcuni problemi che possono andare dalla depressione, dall'ansia allo stress. Ecco, voi se non riuscite a addormentarvi, mettete su questi suoni che vi permettono di vivere magari la natura, se abitate in città e non potete assaporare questi suoni, ma al tempo stesso vi danno anche l'opportunità di addormentarvi, di rilassarvi e anche di meditare. Stavo leggendo un articolo, però ecco, mettiamo questa bella base consona della natura, perché si parla di natura. Come stavo dicendo, l'articolo è estrapolato dal Fatto Quotidiano e parla proprio di ecoinformazione, documentari, inchieste e riviste specializzate. Anche nel bel paese la comunicazione si tinge di verde. A farla da padrone è il web, dai social network, motori di ricerca specializzati, fino ad arrivare a tantissime testate online che dedicano all'ecologia e all'ecosostenibilità. Cresce anche in Italia l'interesse per l'ambiente, una tendenza arrivata qualche anno di ritardo rispetto agli altri paesi, ma sembra proprio catturare la nostra nazione. Il verde, insomma, sta prendendo sempre più piede. Il settore in cui il boom ecologico si sta manifestando con più forza è quello dell'informazione, una vera e propria rivoluzione mediatica che interessa principalmente il web, con testate giornalistiche online, e pensate un po', c'è persino qualche motore di ricerca specializzato proprio per trovare magari degli argomenti a tema di verde, ecologia, ecosostenibilità, eccetera eccetera. Quindi, se siete ecologisti, ora possiamo mettere anche la nostra base, dicevo, se siete degli ecologisti, ricordate che Radio Oltre Po in versione test ha anche un secondo canale, una seconda radio che si chiama Radio Oltre Po 2 e che vi programma nell'arco delle 24 ore solo musica cosiddetta New Age. Facciamo sentire i suoni della natura che vi permettono un pochino di staccare la spina dalla quotidianità, dalla vita, logorio della vita moderna, diciamo, un tempo. Non è poi tanto sbagliato, magari siete presi, siete sempre di fretta, di corsa, siete arrabbiati, siete giù di morale. Ebbene, sintonizzatevi su Radio Oltre Po 2 e ascolterete i suoni della natura per meditare, pensare, riflettere e, perché no, anche per prendervi cura di voi stessi in modo naturale, senza assumere delle pastiglie dannose per l'organismo e che poi offrono dei rimedi molto molto, direi, poco seri e insomma, il discorso un po' contorto, mi auguro che mi abbiate capito. Ricordate Radio Oltre Po 2, intanto ritorno anche la base della natura per ascoltare 24 ore su 24 solo il sound della natura, natural sound. Ora direi di proseguire con la nostra musica. Purtroppo è l'ultimo brano che mettiamo questa notte, è richiestissimo, anche l'altra volta l'avevo programmata, mi è stato richiesto via email da Roberta e lo suoniamo, The Last Sunset di DJ Milko. Ancora questo brano, poi purtroppo ci saluteremo perché è scaduto il mio tempo, però non disperate, i programmi di Radio Oltre Po continuano con le nostre repliche delle dirette e tante altre sorprese che potete scoprire solo sintonizzandovi su www.radiooltrepo.com. Io sono il Mangia e questo è il Mangia Show online con voi, DJ Milko, The Last Sunset. Della dance, sei su Radio Oltre Po. Last Sunset. Era DJ Mirko che conclude ufficialmente il Mangia Show su Radio Oltrepò. Prima di salutarvi vi ricordo insomma tutte le coordinate, se volete interagire con me, sono un attimo impappinato ma capita, tutte le varie coordinate online: www.radiooltrepò.com, il sito ufficiale, oppure il mio blog www.andreamangiarotti.com. poi abbiamo anche un indirizzo mail che è il seguente: radiooltrepò@live.it. siamo presenti anche su Facebook Network e anche su Twitter Network, se volete leggere le ultime nostre notizie. Mi sembra di aver ricordato tutto. Vi ricordo che se vi piace questo programma lo potete tranquillamente diffondere tramite radio o anche semplicemente scaricare in versione download free. Lo potete fare perché le canzoni trasmesse sono di tipo Creative Commons, quindi una licenza che permette il download gratuito, legale, liberale, senza aver problemi di trovarvi la CIA, insomma, che vi bussa alla porta e vi dice: state masterizzando un CD con artisti da noi tutelati. Quindi andate tranquilli, vi potete scaricare tutto il programma, potete diffonderlo, farlo ascoltare ai vostri amici, ascoltarlo sul cellulare, in macchina, fate un po' quello che volete. Se ci fosse qualche editore di qualche stazione radio, se vi piace la mia voce, vi piace insomma il mio stile di condurre il programma, potete tranquillamente contattarmi e potremo insomma discutere assieme. Se cercate un collaboratore, eccomi qua, sono a vostra completa disposizione. Da parte mia ribadisco la massima lealtà, serietà e onestà. Mi auguro che anche da parte vostra ci possa essere queste mie caratteristiche che cerco da circa 15 anni di portare avanti tramite il web, con i miei siti oppure semplicemente attraverso Radio Oltrepò. Mi sembra di aver detto tutto, vi devo solamente salutare. Complimenti ancora una volta a Roberto Vecchioni, complimenti anche a Imoda con Emma e ad Albano che è arrivato terzo. Bravo anche Max Pezzali, purtroppo è stato eliminato, vabbè, ce l'ha messa tutta anche lui da buon pavesotto. Un saluto a tutti, ci ritroviamo prossimamente sempre qua all'interno della programmazione di Radio Oltrepò. Ora vi regalo l'ultima canzone che è di Jameson Young, il titolo è Crush, che è anche la sigla finale del Mangia Show. Grazie a tutti per l'attenzione, un abbraccio da parte del Mangia, state bene e mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Oltrepò. Ciao ciao, grazie e un grande grande ciao da Andrea Olmangia. Ciao ciao, bye, alla prossima. Me down again. to see you happy. It seems you're bent on crushing me, crushing me, crushing me. It's the day after you burned me and the smoke still hasn't cleared. I don't know what to say. You brought a man to tears. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to crush me down. You don't have to crush me. You don't have to crush me.